La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Bacon è rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 13 giugno 2009, benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E quest'oggi parliamo di un argomento che nelle scorse settimane ha tenuto banco sulle televisioni e sui giornali di tutto il mondo. In termini scientifici si chiama Darwinius Masille, un fossile di adapide molto ben conservato risalente a 47 milioni di anni fa. In termini mediatici l'evento l'avete sentito denominare come l'anello mancante. Ne parleremo con Lorenzo Rock del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze. Come lei sa, all'inizio della trasmissione abbiamo le classiche e note 100 parole iniziali per introdurre la puntata. E allora, in parole povere, che cos'è questo Darwinius di cui si è tanto parlato? Allora, il Darwinius di cui si è tanto parlato è un primate fossile, i resti di un organismo che è vissuto circa 47 milioni di anni fa in un luogo che oggi corrisponde alla Germania e che al tempo era una foresta tropicale in una area geografica che più o meno corrisponde all'Europa centrale di oggi. Benissimo, professor Rock, a questo punto andiamo a ascoltarci un primo pezzo musicale, torniamo in studio e cominciamo davvero con la nostra chiacchierata. E bentornati a Caccia al Fotone. Più che un Darwinius Masille, questo fossile è stato un Darwinius Journalisticus. E quindi come potevamo cominciare se non con un pezzo di documentario a lui dedicato? A team of top scientists secretly studies a unique fossil. The fossil has more information in it than in any fossil I've ever seen. They believe that it could shed new light on human evolution. Well, it's really a kind of Rosetta Stone because it ties together the parts we haven't been able to associate before. Their research will stun the world. This fossil will probably be the one that will be pictured in all textbooks for the next 100 years. They may have found the first ever link to human beings. In the moment when the results of our investigations will be published, this will be just like an asteroid hitting the Earth. C'era un tempo in cui una cometa cadde sulla Terra e portò il seme della vita. C'era un tempo in cui i pesci nuotavano, gli uccelli volavano e gli animali camminavano. Ma l'uomo in tutta questa ambaradanda da dove è saltato fuori? Dunque, la storia è una storia veramente molto lunga. È in realtà la storia della vita sulla Terra, la storia di come è stato popolato e abitato il nostro pianeta. E inizia centinaia di milioni di anni fa, miliardi di anni fa. In realtà, cercando di sintetizzare la storia dei tetrapodi, dei vertebrati sulla terraferma, inizia in un certo momento, verso la metà del Paleozoico, in quel periodo che si chiama Devoniano, che è un periodo di grande cambiamento. Ci sono delle forme di pesci che vivevano appunto nell'acqua che riescono a adattarsi, a conquistare la terraferma e quindi conquistare un nuovo ambiente di vita con tutti i problemi che una forma adattata a vivere nell'acqua ha a vivere in un altro mezzo, dalla respirazione al metabolismo, al modo di spostarsi. Ecco, quegli esploratori, quegli impavidi pesci che hanno conquistato la terraferma sono in realtà gli antenati di tutti i vertebrati terrestri successivi, compresi i primati. E bisogna arrivare alla fine del Mesozoico, il momento in cui scompaiono dalla scena della vita sulla Terra i dinosauri e prendono avvento i mammiferi. Ecco, i primati sono uno dei primi mammiferi che compaiono e che gettano le radici della diversità che conosciamo oggi. Ti interrompo un attimo. I primi primati che hanno vissuto sulla Terra si sono trovati a convivere con l'ultima generazione di dinosauri oppure sono usciti in un secondo momento? I più antichi primati vivono già, sono conosciuti prima dell'estinzione dei dinosauri, quindi hanno convissuto per un certo periodo di tempo. Erano forme marginali che vivevano in nicchie ecologiche molto ridotte, probabilmente notturni, mentre i dinosauri ovviamente erano diurni. La storia dei primati è una storia che ha le sue radici appunto all'interno del, già ancora nel Cretaceo, e poi esplodono, come molti altri mammiferi, con l'inizio del Terziario, con l'inizio del Paleogene, al momento in cui scompaiono di scena, in cui sono estinti i dinosauri e lasciano una serie di nicchie ecologiche liberi e disponibili da essere colonizzate. L'uomo è un primate, quindi nella diversità che esiste tra i primati è a un certo punto una linea evolutiva, un ramo di questo grande albero, di questo grande cespuglio che sono i primati, prende la direzione che porterà poi al risultato che siamo noi, il genere Homo. Oggi il primo uomo generalmente è considerato Homo habilis, una specie estinta di uomo che è vissuto circa 2 milioni di anni fa in Africa, e si differenzia dai suoi diretti antenati perché ha delle caratteristiche che ancora oggi caratterizzano il nostro genere. Ha una capacità cranica più grande dei suoi predecessori, ha dei denti modificati con una riduzione della dimensione dei molari e ha una maggiore capacità manipolativa nelle mani. I resti scheletrici dimostrano come le ossa della mano fossero strutturate in modo da poter effettuare la presa di precisione e ad avere una certa abilità, proprio come viene specificato nel nome che è stato dato a questo forma fossile, Homo habilis. Senti, io in questo momento ho sotto gli occhi una mappa dell'evoluzione umana e guardandola con attenzione notiamo che all'inizio della scala abbiamo l'Homo ergaster e poi abbiamo due linee evolutive. Una passa dall'Homo erectus e l'altro passa dal Rhodesiensis. Come mai quindi due linee evolutive e non una? Dunque, perché fino a qualche anno fa l'idea che avevamo dell'evoluzione umana era uno schema abbastanza lineare, dall'australopiteco si passa a Homo habilis cambia progressivamente, diventa Homo erectus diventa Homo sapiens, in questa transizione quasi lineare. Negli ultimi decenni i ritrovamenti che si sono susseguiti hanno portato un po' a cambiare lo schema evolutivo. Oggi si tende a raffigurare più come un cespuglio l'evoluzione umana, con forme diverse tra loro che vivono per un certo periodo e poi scompaiono con molti rami secchi, in realtà con tante incertezze su quali siano i collegamenti tra i vari rami, cioè quale sia il vero percorso evolutivo che ha portato poi a Homo sapiens. Cosiddetto anello di congiunzione che non verrà mai trovato, visto che per definizione ogni fossile è un anello di congiunzione. Esatto, anche perché se pensiamo a un'evoluzione lineare e con poche forme che si succedono, può far suggerire l'anello di congiunzione. Su questa strada ogni pezzo che io posso collocare unisce un tragitto precedente da un tragitto successivo. Abbiamo detto che nel gradino inferiore all'uomo attuale abbiamo in una linea evolutiva il Rhodesiensis e nell'altra l'Habilis. Ma in che cosa si differenziavano questi due? Le differenze sono definite dai paleoantropologi sulla base dei caratteri morfologici che possono essere osservati dai resti scheletrici, quindi la proporzione nella dimensione della dentatura, la capacità cranica, la struttura delle parti che si conoscono dello scheletro postcraniale. In realtà, da un punto di vista morfologico, le differenze sono in certi casi anche difficili da valutare. I resti che abbiamo a disposizione non sono mai tantissimi e spesso sono isolate nel tempo e nello spazio. Quindi la domanda che si pone è: cosa sappiamo noi della variabilità inter e intraspecifica che esisteva tra queste popolazioni lontane tra loro? Andiamo quindi un pochino più indietro nella scala evolutiva. L'australopiteco, che è poi la specie da cui il genere Homo sembra essere fuoriuscito, dove lo possiamo collocare? L'australopiteco è un genere di ominide che sta alla base del nostro genere. Cioè, il genere Homo si differenzia da una forma di australopiteco. Australopiteco è identificato anche nell'immaginario collettivo da Lucy, questo nostro antenato di circa 3 milioni e mezzo di anni fa. E quello era più o meno la fascia temporale in cui si erano differenziati ed erano abbastanza diffusi gli australopiteci nel continente africano. Le forme di australopiteco più antiche che si conoscono sono state chiamate con un nome ancora diverso, che è Ardipiteco, e si collocano cronologicamente ancora più indietro nel tempo, tra i 5 e i 6 milioni di anni. In questo orizzonte temporale, che è un po' la transizione tra il Miocene e il Pliocene, addirittura sembra esserci una certa diversificazione di ominidi arcaici. Negli ultimi anni sono stati descritti dei resti in Chad, che sono chiamati Sahelanthropo, chiamato con un soprannome di Toumaï, è uscito anche sulla stampa, ha avuto una certa pubblicità. Alla transizione tra il Miocene e il Pliocene, in cui c'è anche un cambiamento climatico importante, un cambiamento ambientale importante a scala globale, e si è sviluppato qualcosa, una qualche pressione selettiva che ha spinto verso quella direzione evolutiva che poi ha portato, dopo qualche milione di anni, all'emergere del genere Homo. L'australopiteco è una forma che è vissuta da tra i 4 e i 2 milioni di anni fa, e 1 milione e 8, e si sovrappone cronologicamente in qualche modo, in qualche misura, con forme più arcaiche del genere Homo. Era importante che lo collocassi temporalmente perché quando parleremo di Darwinius collocheremo questo fossile a ben 47 milioni di anni fa e quindi vedremo che possibile relazione ha col genere Homo. Intanto ci andiamo ad ascoltare un secondo pezzo musicale e poi continueremo con la nostra chiacchierata. Dottor Rocca, a questo punto rientriamo in studio e ricominciamo a davvero parlare di Darwinius, visto che è stato presente sui giornali di tutto il mondo, con un articolo peraltro pubblicato su Plus One qualche giorno fa, in cui si parlava fondamentalmente di un anello di congiunzione, un link che avrebbe dovuto dare un senso all'apparizione dell'uomo. Prima di parlare però del come è stato presentato tutta la stampa, cominciamo un attimo con la didattica. Come si classificano i primati e cosa sappiamo di più dei loro antenati? Allora, i primati sono un ordine da un punto di vista di classificativo, di tassonomico, ed è un ordine complesso con una grande diversità al suo interno. Allora, per inserire qualche termine tecnico, allora, i primati attuali, i primati viventi, si dividono in sottogruppi, la classificazione è un'operazione di insiemistica. Allora, oggi tra i primati esistono gli aplorrini, che è un termine abbastanza buffo, che indica il gruppo che comprende varie cose, comprende i tarsi, le scimmie del Nuovo Mondo, cioè i cebi, le scimmie del Sud America, e le scimmie del Vecchio Mondo, che sono i cercopitecidi e le scimmie antropomorfe. Quindi anche noi siamo inclusi in questo grande sottoinsieme dei primati. Esiste un altro grande gruppo, un altro grande sottoinsieme di primati, che sono gli strepsirrini, o i lemuri per intendersi, che sono scimmie diverse dalle altre, hanno una loro divisione. Questo tra i primati attuali. Ovviamente nella documentazione fossile esistono dei primati che non sono immediatamente inseribili in questa classificazione, soprattutto se andiamo nella documentazione più antica. Nel momento geologico che corrisponde al ritrovamento di Darwinius abbiamo due famiglie estinte che sono conosciute solo nella documentazione fossile, che sono gli adapidi e gli omomidi. Gli omomidi generalmente sono considerati un gruppo di aplorrini primitivi. Cosa vuol dire? Che probabilmente in questo mondo estinto di omomidi va individuato l'antenato che poi porta alla diversità degli aplorrini, quindi ha compreso le scimmie antropomorfe e l'uomo avrebbero la loro radice più antica tra negli omomidi. L'altra famiglia estinta, gli adapidi, è un po' più dubbia, c'è cioè un po' più di discussione sulla sua interpretazione. Generalmente è considerata il mondo ancestrale degli strepsirrini, cioè dei lemuri. Quindi in uno schema classico, molto semplificato, il grande gruppo che include le scimmie antropomorfe sarebbe da far radicare negli omomidi, i lemuri negli adapti. Quindi, detto in parole povere, se tutto dovesse essere confermato, l'uomo verrebbe non dalla famiglia degli omomidi, bensì dalla famiglia degli adapidi, giusto? Sì, il motivo della grande attenzione o del grande rumore che è stato dato a questo ritrovamento è che Darwinius è classificato come adapide. Però nella sua morfologia scheletrica, tutti i dati di estremo dettaglio che questo fossile eccezionale consente di mettere a disposizione ai ricercatori, sembrerebbe avere nella sua caratterizzazione alcuni dei caratteri che ritroviamo negli aplorrini successivi. Quindi un possibile antenato è una forma ancestrale del grande gruppo che include anche le scimmie antropomorfe e quindi Homo, sarebbe da ricercare nel mondo degli adapidi, quindi non negli omomidi come è generalmente ritenuto negli schemi correntemente accettati, ma nell'altro mondo di primati estinti. Nella presentazione, o meglio nel battage pubblicitario della sua presentazione, sono state dette due cose. La prima è che questo è il fossile meglio conservato nella storia della paleoantropologia, e la seconda è che questo adapide ha il pollice opponibile. Ora sappiamo e conosciamo l'importanza di questo fattore, ma quando il pollice opponibile è diventato fondamentale nell'evoluzione umana? Il pollice opponibile come caratteristica generale è un qualcosa di molto arcaico tra i primati. In questo mondo di primati estinti, che generalmente sono considerati alla base delle scimmie che includono l'uomo, questi omomidi sono caratterizzati già ad avere un pollice opponibile. Sono animali arboricoli e piccolissimi, sono delle forme di dimensioni molto ridotte, si muovono tra i rami, e il pollice opponibile è una caratteristica importante per la presa, attaccarsi saldamente al substrato e spostarsi facilmente su dei rami che non sono il massimo della stabilità su cui muoversi e spostarsi. Quindi diciamo questa caratteristica di pollice opponibile, già individuata negli omomidi e considerata un carattere importante, viene individuata con Darwinius anche in una forma di adapidi, quindi era già condivisa più ampiamente. Poi, per quanto riguarda l'uomo, appunto facendo un salto di quasi 50 milioni di anni, questa caratteristica di pollice opponibile viene sviluppata e adattata non più per una finalità di locomozione, ma può fare altre cose, e l'uomo acquisisce le capacità manipolative, una presa di precisione, una capacità di manipolare oggetti, fino addirittura a quella di fare strumenti, ed è l'inizio del percorso evolutivo che ci caratterizza. Senta, un'altra cosa curiosa, e l'abbiamo detta prima, è che nella sua presentazione è stato presentato come l'anello di congiunzione. Ora, io ho 30 anni ed è da almeno 20 che sento dire che è stato trovato l'anello di congiunzione, un po' come quando si dice che è stata trovata l'acqua su Marte. Ora vorrei che tu chiarissi, dal punto di vista delle parole, che cos'è un anello di congiunzione? Allora, l'anello di congiunzione è un termine che piace moltissimo nella divulgazione per chi deve presentare una nuova scoperta, lascia sempre molto perplessi e molto scettici i ricercatori. Il termine anello di congiunzione dà l'idea di un collegamento lineare tra un anello precedente e un anello successivo. In realtà abbiamo visto prima, parlando dell'evoluzione umana, come l'idea di alcuni decenni fa di un'evoluzione lineare, di una successione di specie, sia meglio sostituita da un'evoluzione a cespuglio. Quindi il termine anello di congiunzione è quanto mai inadatto a spiegarlo. Io suggerisco di usare un termine di un tassello in un puzzle. Il paleontologo deve ricostruire degli scenari e ha a disposizione delle tessere di uno scenario che non conosce, e in base alle informazioni che la documentazione fossile gli fornisce cerca di immaginare che cosa esiste tra un pezzo del puzzle e l'altro. Dottor Rock, io per sfizio sono andato direttamente sul sito di PLOS ONE e sono andato a inserire le parole Darwinius nel motore di ricerca. A quel punto sono usciti due paper. Un paper è quello ufficiale, che poi è quello di Gingerich, in cui viene descritta la scoperta del fossile di Messel, e poi un secondo in cui PLOS analizza come è stata gestita la faccenda mediaticamente. Allora, la prima cosa che faceva notare PLOS è che il paper non è stato pubblicato su una rivista come Science and Nature, di lenta pubblicazione, ma proprio su PLOS, che è una rivista open access che permette di pubblicare rapidamente, forse perché la conferenza stampa era breve. Inoltre, i giornalisti invitati nella conferenza stampa hanno avuto modo di leggere la ricerca solo il giorno stesso. E allora, alla luce di tutto questo, che idea te ne sei fatto? È stato più un fenomeno scientifico o più un fenomeno mediatico? Allora, bisogna distinguere due cose. Uno è l'aspetto scientifico, la descrizione e le conclusioni scientifiche dell'articolo pubblicato su PLOS ONE. L'altro è il grande attenzione che è stata data da parte dei media a questa segnalazione. E in un certo senso il contrasto che è stato notato tra ciò che si afferma nell'articolo, cioè i contenuti scientifici, e ciò che anche alcuni degli stessi autori hanno poi, come hanno presentato i risultati e la ricerca. E proprio sul blog di PLOS ONE, questa rivista è molto quotata, è una rivista estremamente prestigiosa, e anche sul blog, sul sito del National Geographic, viene rimarcato questa incongruenza. Nell'articolo scientifico non si parla di anello di congiunzione, di missing link, mentre nel battage pubblicitario che è stato fatto successivamente si sottolinea questo aspetto di anello mancante. Questa contraddizione è stata notata nella comunità scientifica e dagli osservatori, e ha provocato delle reazioni, dei dibattiti. Certo che è stata attirata più attenzione di quanto non sarebbe emerso sul resto con questa diatriba che ne è sorta. Lorenzo, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio per gli ultimi 5 minuti di trasmissione. Ed eccoci tornati in studio per gli ultimi stralci di trasmissione. Abbiamo parlato di molte cose in questa trasmissione: dell'evoluzione dell'uomo, dell'australopiteco, di Darwinius e dell'importanza del pollice opponibile. E a proposito di pollice opponibile, qui in Italia, proprio nei pressi di Firenze, abbiamo un antenato vicino di casa che lo possedeva, che è il cosiddetto Oreopiteco. Visto che hai appena pubblicato un paper proprio sull'Oreopiteco, lascio la parola a te. Che cos'è l'Oreopiteco? Sì, introdurre l'Oreopiteco in fine trasmissione è un po' relegarlo. Non so se abbiamo tempo per un'altra trasmissione, perché ovviamente questo argomento richiederebbe molto tempo. Ma sì, Oreopiteco è un primate esclusivamente italiano, che è vissuto in un momento in cui l'Italia ancora non era formata con la fisiografia che conosciamo oggi, con la penisola, ma circa 10-8 milioni di anni fa il Mediterraneo centrale era occupato da delle isole, e alcune di queste, la Sardegna e parte della Toscana, erano abitate da una fauna, da animali endemici, cioè caratteristici di quell'areale estremamente ristretto. Ecco, Oreopiteco era un primate, una scimmia antropomorfa adattata all'ambiente locale di quest'area del Mediterraneo centrale. Lorenzo, dopo questa coda sull'Oreopiteco ti ringrazio per la partecipazione, saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fujiko, e auguro come al solito una buona scienza a tutti. A sabato prossimo.